Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno! Domenica 13 gennaio 2013, 56esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Janet, let's talk about the future. Janet, check out the life you chose. What the dreadful. Siamo a Montespertoli dai nostri amici Anna e Gianluca e ci facciamo raccontare la storia di Angiolino. Angiolino adesso è un magnifico gallo che sta crescendo. Quando l'abbiamo conosciuto il 15 agosto era soltanto un pulcino. Adesso lo ritroviamo molto cambiato. Gianluca, com'è cominciata la storia del vostro incontro con Angiolino? Un vicino di casa ci ha chiesto di accudire i suoi pulcini che erano nati da pochi giorni. Ci ha chiesto questo perché doveva andare in ferie e quindi lasciava abbandonati tutti questi pulcini, aveva bisogno di curare il cane, insomma, e noi eravamo qui disponibili. Un bel giorno siamo andati nel pollaio e questi pulcini mangiavano come al solito, ma ce n'era uno che era lui, cioè Angiolino, quello che poi abbiamo chiamato Angiolino, che era nell'angolo in fondo a questa scatola dove stavano e non era in buone condizioni di salute, barcollava, insomma. Il giorno dopo siamo tornati e questo pulcino era veramente messo male, stava in terra, gli altri lo calpestavano, credevamo che fosse morto. Poi muovendolo appena, toccandolo, si è un po' mosso e abbiamo capito che era vivo e Anna l'ha portato subito dal veterinario per vedere di risolvere la situazione, insomma, se c'era ancora qualche speranza di vita per Angiolino. E così è iniziato il nostro rapporto umano-animale con lui. E la veterinaria, perché è una donna, e ha detto che probabilmente c'erano pochissime speranze perché aveva questo rachitismo molto avanzato. Insomma, ha detto proviamo, insomma. E mentre parlava e mi raccontava che era difficilissimo che si potesse riprendere, e lo ha preso in mano e ha cominciato a dargli da mangiare infilandogli il becchime in fondo alla gola, poi con la punta di un termometro glielo mandava giù per bene come avrebbe fatto la mamma con il becco. Poi ha preso una pipettina di gomma e per capillarità gli faceva bere un po' di acqua appoggiando una goccia sul becco, poi le vitamine, e alla fine lei mi ha detto: guarda, questo è il tuo compito, a questo punto non ti ci affezionare perché non è detto che ce la faccia, però ogni 2 o 3 ore devi fare tutto quello che ho fatto io fino ad ora. L'ho preso, l'ho portato a casa, ho sistemato una scatolina con tutta l'attrezzatura e ogni 2 o 3 ore gli davo da mangiare notte e giorno, ovviamente mettevo la sveglia la notte E poi quando siamo andati a cena da degli amici sulla montagna pistoiese, l'abbiamo portato dietro, siamo andati a trovare i miei genitori a Rimini, è venuto con noi, cioè lui ha fatto tutto quello che abbiamo fatto noi, insomma è sempre stato con noi, perché ogni 2 o 3 ore doveva mangiare, doveva bere, così. Parliamo anche degli altri componenti animali della famiglia, perché non siete soli in questa casa, quindi Angiolino convive con... Angiolino convive con Olmo, che è un cane, un meticcio molto simile a un bobtail. Poi vive insieme a Bianca, che è una cagnolina Labrador, giovane, di 2 anni e poco più. E poi in casa ci sono due gatte, Tina e Ella. Angiolino direi che ha un rapporto buono con tutti questi animali. Piano piano sta risalendo un po' la scala gerarchica della famiglia animale, perché vabbè, è arrivato che era un piccolo pulcino malandato e ora è diventato un giovane gallo, e quindi come giovane gallo insomma vuole fare valere il suo ruolo e comincia a diventare insomma un animale con la sua importante personalità all'interno della famiglia, anche un po' autoritario, sì. Per esempio, cosa succede? Mi raccontavi prima entrata uscita di casa. Sì, la mattina se riesce a uscire lui per primo dalla porta, nessun altro può uscire finché lui non ha finito di cantare, perché appena esce dalla porta incomincia a cantare, finché lui non si allontana nessun altro può uscire perché lo becca. Allora abbiamo dovuto fare in modo che lui uscisse da una porta, che dove potesse fare tutta la sua operazione, il suo rito, e i cani e noi uscissimo da un'altra porta. Quindi non è vero che avere un gallo significa alzarsi a ore impensabili perché all'alba canta? No, direi che il gallo canta a tutte le ore, insomma, a parte poi quando dopo il tramonto, insomma, è molto difficile che canti, però non è detto che canti veramente all'alba, ci sono delle mattine che canta sia alle 5 ma altre dove canta alle 9, e quindi non è difficile vivere con un gallo in casa, di la verità. Premetto che Anna è una cantante, per cui probabilmente col canto ha più dimestichezza di una persona normale. Come ve la vivete se si mette a cantare alle 5 di mattina? A me piace, io amo sentirlo cantare, perché è un canto ovviamente diverso da come noi si possa concepire il canto, no? Però è bellissimo perché lui assume proprio una posizione particolare, si prepara al canto, si allunga, diventa più grande e poi a un certo punto apre leggermente il becco e questo suono esce non si sa bene da dove, perché non è prodotto in alto, diciamo nella zona quella che noi pensiamo come laringe, no? Sembra prodotto più in basso, però non ho ben, insomma, ovviamente non so come funzioni tutto questo, però secondo me è bellissimo sentirlo cantare, cioè a me non dà fastidio, anche se mi sveglia alle 5 di mattina e lo sento volentieri e poi mi riaddormento. Ma è capitata qualche rissa con i cani? Qualcuno ha preso un morso, qualcuno una beccata? Come è andata? Sì, qualche volta ci sono delle piccole lotte, ma in realtà la famiglia animale è molto pacifica. Chiaramente ci sono delle dinamiche che accadono quotidianamente, insomma il gioco, ci sono i cani che giocano e Angiolino vuole partecipare, vuole rubare una pallina a Bianca e vuole correre via, poi vuole rincorrere il gatto, insomma succedono queste cose tutti i giorni, ma vere liti non sono delle dinamiche che accadono insomma normalmente, come in tutte le famiglie animali direi. E a volte devo dire la verità, se si avvicina Pollo alla pallina, Bianca non si può avvicinare, lui ha la precedenza, perché sennò la becca, sicché lui poi la prende, scappa con la pallina e lei lo rincorre, poi a volte lui la lascia, la riprende. Sì, è veramente originale. Invece poi un'altra cosa che lui piace molto fare è dormire accanto al cane, a Olmo. Cioè se Olmo si acciambella sul divanetto che c'è fuori e si mette a dormire, Pollo sale sul divano e Angiolino e si accovaccia appiccicato a Olmo, come se proprio volesse stare attaccato, e dormono insieme. perché Olmo sembra anche un po' una balla di fieno. È talmente peloso. Sì, Olmo sembra un pupazzone, molto caldo e confortevole, quindi insomma per Angiolino non c'è di meglio, insomma, stare lì accovacciato accanto a Olmo è un sogno, ma anche per noi in definitiva è molto bello. Ovviamente non mangiamo carne né pesce, quindi gli animali non li mangiamo. E sì, diciamo, io più che altro era tanto tempo che mangiavo. Andiamo via un attimo, Angelina. Era tanto tempo che mangiavo pochissima carne e pesce. Poi un giorno ascoltai una tua trasmissione in cui era stata intervistata una signora che aveva una capretta che si comportava come un cane. Cioè lei ha detto, ho visto che la mia capra, quando io mi sono comportata con lei come mi comportavo con i cani, è diventata come loro, cioè anche lei ha avuto un comportamento simile. E sicché io in quel momento lì ho detto, ma come ho fatto a non pensarci prima, che in effetti è così? Cioè non mangerei mai un cane o un gatto, perché io devo mangiare un altro animale? Che se mi avvicino e vivo con un altro animale ha lo stesso comportamento di un cane e di un gatto, che poi è simile al nostro. E così ho deciso che non avrei assolutamente più voluto mangiare la carne di un essere vivente. So jump to the left. Whoa, whoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whoa, whoa. Since you're in car and rock and roll. Whoa, whoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whoa. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. Torniamo a parlare di circhi. Nell'area fiorentina ne sono attendati due. Uno, il Magnifico Acquatico a Firenze, non impiega animali. L'altro, il Medrano, che si è fermato a Scandicci, invece sì. La nostra Silvia Vallecchi è andata a curiosare fra il pubblico per cogliere commenti e valutazioni. Si è anche imbattuta casualmente in Davio Casartelli, che è il gestore del Circo Medrano. Dalle interviste, come sentirete, emerge ben poca attenzione alla condizione di strutturale sottomissione e sfruttamento degli animali impiegati nei circhi. Una condizione che tuttavia è sempre più messa in discussione dalle amministrazioni locali, come abbiamo documentato nelle passate puntate, intervistando anche sindaci e assessori di varie città italiane. Per fare il punto sulla situazione abbiamo sentito questa volta Valerio Pocar, sociologo del diritto e animalista molto conosciuto a livello nazionale, che è anche il garante della tutela degli animali per il Comune di Milano. Perché avete scelto il Circo Medrano? Che ne faccio parte. Voi avete scelto questo circo, perché avete scelto il Circo Medrano? Siamo andati, si stava parlando ora, l'anno scorso a un altro circo, ma non era... Insomma, questo è un bel circo. Cosa vi ha colpito? E naturalmente gli animali, e poi insomma anche... sono dei professionisti, si vede, sono abbastanza. Quindi vi è piaciuto? Non c'è niente che... Sì. Sinceramente io ero anche piuttosto, diciamo, un po' contraria, animali una cosa o un'altra, invece vedo che sono tenuti bene. Tutto questo circo perché c'è... a Scandicci, perché non c'è mai nulla a Scandicci, quest'anno c'è una cosa interessante. Cosa vi è piaciuto di più? Tutto, compresi gli animali. Anche non sono molto d'accordo con gli animalisti. Non è d'accordo? No, no, perché questi non sono trattati male. Secondo me non gli hanno fatto niente e non potevano fare qualsiasi animale. Perché secondo lei correre al galoppo gli fa meglio? Come, che cioè, senso? E fargli fare le corse, il galoppo, doparli, secondo me li tratta meglio. Secondo me no, ecco. Quindi io sono d'accordo. Che cosa l'ha colpita di più all'interno del circo, dello ma spettacolo? Diciamo che io tanto non venivo al circo, ormai l'età, un essere veramente da circo, ma sono solo bambini. E devo dire che mi ha colpito come sono riusciti scenograficamente a entrare dentro il pubblico, ecco, insomma, con delle formule sicuramente nuove. Si vede, insomma, che non è più il circo di una volta. E quindi cosa ne pensa anche, diciamo, delle contestazioni che ci possono essere? No. Ma guardi, le contestazioni possono essere più o meno giuste. Io non voglio sindacalizzare su questo, mi è sembrato che comunque sia gli animali non sono trattati assolutamente male. Certo, vedere delle giraffe, vedere dei lama, vedere dei serpenti, pitoni, si considera che non è questo il suo luogo, tra l'altro in Toscana qui, però ritengo che sicuramente ci sono tante molte altre cose da dover contestare e non certamente al circo, come per esempio ci insegna Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, quelle sono le inchieste dove vengono davvero maltrattati gli animali. Non credo assolutamente che il circo si possa permettere di maltrattare gli animali. Il domatore che entra dentro con le tigri non credo le possa maltrattare, perché altrimenti lo verrebbe sbranato da questi. Noi umani dobbiamo dire grazie chi ha inventato la ruota e agli animali, sino allo sviluppo mondiale non c'era. Oggi non saremo 7 miliardi di persone, ma saremo ancora 200 milioni. Se lei toglie gli animali nel circo, no? Spariscono i bambini, prima di tutto. I bambini non li portano più al circo. Noi l'abbiamo già detto tante volte, togliete questo contributo, non lo vogliamo più. Ma lasciateci stare gli animali. La giraffa è nata qui da noi, in mezzo qui a noi. Noi abbiamo anche i filmati, tutto quanto. Noi l'abbiamo tirata fuori da sua mamma, giusto? Giraffe, cammelli, dromedari, lama, tigri, leoni, somarini, cavallini. Questi animali sono animali da circo, nel senso che sono animali da generazioni qui con noi, perché nascono qui da noi. Cioè il papà, la mamma, il nonno, non sono animali da praterie. Come mai avete scelto questo circo? Vabbè, perché volevamo provare un circo diverso senza gli animali, solo per questo. Cosa vi è piaciuto dello spettacolo e cosa magari vi ha colpito di meno? Allora, quello che ha colpito di meno sono le Winx, ma forse perché lui è un maschio, quindi non gli interessavano. E cosa è che ti è piaciuto di più? Gli anelli. Quello degli anelli. Quelli che saltavano. Dentro agli anelli. Lei? È uguale. Cosa ne pensate a questo punto delle proteste che ci sono state nei confronti del circo invece con gli animali? No, vabbè, bisogna vedere il discorso, bisognerebbe capire effettivamente se gli animali soffrono in quelle condizioni oppure là. Io non lo so dire, quindi non esprimo giudizi. Certo è che comunque questi tipi di circo qua sono belli lo stesso. Cosa gli è piaciuto dello spettacolo? Perché si tratta del Magnifico Acquatico, quindi è un circo senza animali. I costumi, la scenografia, e lo spettacolo nel suo insieme. Ritornerebbe il prossimo anno comunque a un circo senza animali? O probabilmente sì, anche se il circo tradizionale ha il suo fascino. But I always thought that I'd see you baby one more time again now. Thought I'd see you. Siamo con Valerio Pocar, che è il garante per la tutela degli animali del Comune di Milano, ma è anche uno studioso, un sociologo, ha scritto libri importanti in tema di diritti animali e animalismo. Abbiamo parlato nelle settimane scorse di vari casi di comuni e enti locali che hanno preso provvedimenti contro l'impiego di animali nei circhi. Pocar, sta cambiando qualcosa nella sensibilità verso questa pratica? Su questo non avrei dubbi in senso positivo, nel senso che certamente sta cambiando qualcosa, tant'è che dei comuni pensano di vietare l'attendamento dei circhi con animali sul loro territorio. Questo non era abituale, adesso i casi sono molto numerosi. No, anche se destinati allo stato delle cose all'insuccesso, nel senso che purtroppo la legge nazionale del 68 tutela i circhi, non distinguendo da quelli con animali che sono animali, e li tutela addirittura come spettacoli culturali e anzi addirittura poi li sovvenziona. È chiaro quindi che c'è una forte contraddizione tra una scelta dell'amministrazione locale che vieta l'attendamento e la scelta generale che viceversa addirittura favorisce il circo. Quindi le ordinanze dei vari comuni sono destinate a cadere in caso di ricorso, se questo è il quadro giuridico? Non dico che siano destinate a cadere, perché la speranza è che qualche giudice amministrativo dia anche qualche ragione. Certamente finora i TAR hanno sempre dato torto. e proprio su questa motivazione, dicendo che non è materia, diciamo così, di carattere comunale. Molto spesso dobbiamo dire che i giudici spesso dimostrano più avanzati delle leggi e danno delle interpretazioni di carattere evolutivo. Quindi la speranza è l'ultima a morire, questo naturalmente non deve far venire meno la mobilitazione popolare. Possiamo quindi interpretare questa catena di ordinanze come una forma di riformismo via ordinanza, una sorta di pressione anche verso il legislatore? Eh beh, sì, sì, perché quanti più comuni si mostrassero orientati in questo senso, vorrebbe dire che tante più amministrazioni, quindi tanti più cittadini rappresentati la pensano in questo senso, e naturalmente questo non dovrebbe lasciare indifferente il legislatore. In attesa che qualcosa si muova a livello generale, il mio suggerimento è quello di essere molto scrupolosi nell'applicazione dei regolamenti laddove ci sono, o delle regole generali laddove i regolamenti comunali non ci sono. Questo perché? Perché se si va a vedere si scopre che raramente i circhi sono in regola, raramente non commettono, diciamo, qualche infrazione. E allora il mio suggerimento per le amministrazioni comunali ben orientate è quello di fatele attendare, perché non vi potete dire di no, ponetegli determinate condizioni, dopodiché andate a verificare se queste condizioni sono scrupolosamente adempiute. In caso contrario, prevedete la possibilità di risolvere il contratto, dopodiché il circo, come si è attendato, fa fagotto e se ne va, e dopodiché non può neanche avanzare pretese perché è stato lui a infrangere le regole. Quindi, diciamo, è una via, mi rendo conto, molto, molto riformista. Però a un certo punto, se noi riusciamo, cioè l'uso degli animali nei circhi, poco vantaggioso, addirittura oneroso, economicamente pesante, questo è un bel disincentivo, no? Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Le feste sono finite e con loro l'eco dei maledetti botti di Capodanno. Non è solo il fastidio del rumore, che per noi umani si risolve con una bella offesa alla mamma di chi ci fa scoppiare il botto sotto i piedi. Sono circa 1000 gli animali che hanno perso la vita a causa dei botti, più di 900 solo in Campania, seguita dalla Puglia, dalla Sicilia, ma anche dalla Toscana e dalla Lombardia. Il bilancio di quest'anno pare addirittura peggiore di quello dell'anno scorso. Gli animali si perdono perché scappano e spaventati non ritrovano la strada di casa. Oppure perdono la vita in incidenti stradali, oppure vengono investiti da razzi sparati in maniera più o meno involontaria verso di loro. E poi ci sono le vittime della cattiveria umana gratuita. A Pisa un gatto è stato fatto letteralmente esplodere con un petardo. La polizia municipale cerca ancora testimoni dell'atto vile e schifoso. E poi ci sono quelli che muoiono di crepacuore. I botti causano quella che si definisce miopatia, ossia una degenerazione del sistema muscolare che può portare alla morte per stress. Quando sentono i botti, gli animali cominciano a correre e a muoversi in maniera incontrollata e perdono anche l'orientamento. Da Porto Empedocle arriva la notizia di un cane che si sarebbe letteralmente gettato dal balcone sul quale era stato stupidamente rinchiuso dai suoi proprietari. Probabilmente in un disperato e purtroppo fatale tentativo di fuga, il cane si è sfracellato al suolo e non ce l'ha fatta. Più fortunato è stato Cicerone, un cavallo che per la paura dei botti era precipitato nelle acque gelide dell'Aniene, dopo essere fuggito dal maneggio in cui viveva. Fortunatamente è stato salvato dai vigili del fuoco prima di morire assiderato Non ce l'ha fatta invece Derek, un camoscio operato alla testa per un ascesso grosso quanto il suo cervello. Si era ripreso ed era pronto a tornare nei suoi boschi, ma al mattino del 1 gennaio è stato trovato esanime nella sua gabbia dal professor Giuseppe Quaranta, della clinica per gli animali selvatici del campus di veterinaria di Grugliasco. Non ha retto evidentemente allo spavento. La morte accomuna Derek a migliaia di vittime dei botti della notte di San Silvestro, che ogni anno si ripetono nonostante le denunce delle associazioni animaliste, regolamenti e ordinanze adottate da diversi comuni. La sua vicenda però è senza altro singolare. Derek conosceva la doppietta, spiega il professore, e quel rumore deve avergli ricordato gli spari. Peraltro la mano del cacciatore per lui era stata paradossalmente una salvezza. A trovarlo il 3 dicembre scorso sui prati di una frazione di Torino era stato proprio un cacciatore che, vedendolo agonizzante, aveva chiamato le guardie faunistiche della provincia di Torino stessa. La diagnosi era incerta. Dall'università la decisione di portarla alla clinica veterinaria San Michele di Lodi, specializzata in neurologia, che ha offerto risonanza e operazione gratuitamente. Gli avevamo trovato un ascesso per un'infezione da trauma in seguito a una caduta o a una lotta con un altro camoscio, spiega 40. L'ascesso comprimeva il cervelletto e per lui restava solo una speranza, il bisturi. L'operazione, provata per la prima volta su quel tipo di animale, aveva avuto successo e Derek si era svegliato dal coma ed era tornato ad alimentarsi da solo nell'arco di poche ore. Da allora era diventato la mascotte della clinica dell'università, che è una sorta di arca di Noè per animali selvatici. L'anno scorso semplici cittadini o forze dell'ordine avevano portato lì per essere curati quasi 2400 animali selvatici, tra cui centinaia di piccioni ma anche animali rari come certe specie di rapace. E nonostante tutta questa fatica e la fortuna dell'esito positivo dell'intervento, la sua morte è probabilmente stata dovuta allo stress e al trauma dei botti e non è stata immediata, spiega il professore. Da quanto ha potuto rivelare, deve essersi dimenato in modo sfrenato fino a morire per sfinimento. Nella morte non era solo, in una gabbietta vicino a lui il professore ha trovato anche una poiana che non ha resistito anche lei agli scoppi della mezzanotte. È proprio impossibile dire quanti animali selvatici in natura siano morti per lo stesso motivo. In teoria sono più di 2000 i comuni italiani ad aver fatto la guerra ai botti, da Torino a Milano a Bari, con multe fino a 500 euro. Firenze no, perché il nostro sindaco ha giudicato inutile adottare un provvedimento di questo tipo. Purtroppo, a quanto pare, pur avendo riscontrato una quantità minore di botti esplosi, non è stato possibile cogliere in flagrante i responsabili. Quello che è certo è che i dementi che si divertono a fare violenza sugli animali, anche senza botti, troverebbero sicuramente il modo. Però quello che ci sentiamo di dire a questi signori è che anche il modo in cui uno si diverte esprime l'intelligenza di una persona. Ed uno che si diverte così, intelligente, non lo è davvero. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao, sono Sara. E oggi vi propongo un secondo perfetto vegan loaf. Gli ho dato il nome in inglese perché è più carino che chiamarlo polpettone vegano, anche se è di questo che si tratta. È un secondo sostanzioso, saporito e invitante. Difficile trovare qualcuno a cui non piaccia. Ne esistono mille varianti, tutte ugualmente gustose e da provare. Questa è la mia preferita. Facile, non pesante e si può mangiare anche nei giorni successivi. Gli ingredienti sono una tazza di misto legumi e cereali secchi, quelli per le zuppe per capirci, un peperoncino secco, un rametto di rosmarino, una cipolla, due carote, uno spicchio d'aglio, un mazzetto di bietole fresche, 100 g di noci sgusciate, mezza tazza di pane grattugiato, un pacchetto di crackers, salsa barbecue. Si comincia cuocendo i legumi e cereali seguendo il metodo che preferite, in pentola o in pentola a pressione. Una volta cotti, scolateli bene e lasciateli raffreddare. In una larga padella fate soffriggere con olio extravergine d'oliva, aglio, carote, peperoncino, rosmarino e cipolla tritati molto fini. Dopo qualche minuto aggiungete le bietole tagliate a striscioline, aggiustate di sale e pepe, abbassate il fuoco e cuocete per 5-10 minuti. aggiungete alle verdure i cereali e legumi e le noci spezzettate. Prendete parte del composto e tritatela per qualche secondo con il mini pimer. Non deve diventare una crema omogenea, semplicemente non ci devono essere pezzettoni molto grandi. Aggiungete tutto il composto restante, il pane grattugiato, i cracker tritati, sale, pepe ed erbe aromatiche a vostro piacimento. Deve risultare piuttosto sodo, quindi se vedete che è ancora molto molle e appiccicoso, aggiungete altro pane grattugiato. Quando avrete ottenuto la giusta consistenza, versate tutto in uno stampo da plum cake rivestito di carta da forno e compattatelo per bene col dorso di un cucchiaio. Distribuite sulla superficie un po' di salsa barbecue o sugo di pomodoro e mettete a cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 45 minuti. Lasciate raffreddare almeno 10 minuti prima di servire. In alternativa, invece del misto legumi e cereali, potrete utilizzare anche solo le lenticchie. Viene comunque buonissimo. Ciao, alla prossima! Sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Vita di Bernie, il cane che non voleva abbaiare, è un simpatico libretto di 120 pagine uscito per i tipi della Salani, scritto con caratteri a prova di miopi da tenere in borsa e da leggere in autobus, in treno o in qualche sala d'aspetto. L'autore è Massimo Salvadori, un famoso storico, autore di libri di testo per superiori e università sui quali probabilmente molti, come me, hanno sofferto e goduto, perché diciamolo, la storia di Salvadori è raccontata davvero bene. Una delle cose più belle del libro è la sua prefazione, del prestigioso scrittore triestino Claudio Magris, amico dell'autore. È incredibile scoprire che Magris, un uomo dal portamento serio e austero, che scrive libri così complicati, parla del suo cane Jackson, un griffone, come del suo fondamentale interlocutore e di Buffetto II, un porcellino d'India, come di un altro insostituibile rapporto della sua esistenza. Magris fa altre affermazioni belle e importanti. Parla degli animali come dei nostri cugini e, citando Kipling, parla di un toro aggiogato all'aratro che dice al leone: «Ricordati, fratello, una volta eravamo tutti dei». Il libro comincia con un cane giovane nella gabbia di un canile e ripercorre le tappe di un'adozione felice. Un'odissea casalinga, la chiama Magris. Un romanzo di fantascienza dal punto di vista del cane, che si trova catapultato in un mondo di uomini e a misura d'uomo, come sarebbe per un terrestre fra i marziani o fra gli abitanti di una diversa galassia. Salvadori scrive: «Bernie è stato per me un grande compagno di vita. Quando ci guardavamo negli occhi, il suo e il mio mondo si confondevano, e così pure i nostri linguaggi». Vita di Bernie, il cane che non voleva abbaiare, è la storia di un'esistenza condivisa tra uomo e cane, di linguaggi prima incomprensibili e poi via via decodificati, di identità che entrano in contrasto, ma che poi trovano strade per convivere e completarsi, arricchendo ciascuna esistenza coinvolta. Per incuriosirvi, vi proponiamo un breve estratto dal testo. «Ma», disse a quel punto la padrona del canile, «come vede, è un bel cagnolino, però devo avvertirvi, non abbaia. È come se fosse muto. Sente che chiasso fanno gli altri cani? Questo sta sempre zitto. Forse qualcosa lo ha spaventato, oppure è nato così, non saprei. Poi devo confessarvelo, ha un caratterino, non soltanto con gli altri cani, ma anche con me e con il mio collaboratore. Quando qualcosa gli va storto, non cerca di mordere, questo no, ma si pianta forte sulle zampe davanti, ti guarda con i suoi grandi occhi come per dirti di stare alla larga e poi ringhia, ringhia. È un solitario. Anche se non capivo proprio tutto quello che diceva la padrona, avevo colto l'antifona. Pensai che potevano andare tutti al diavolo. Non cercai per niente di farmi bello. Anzi, me ne stetti sdegnosamente sulle mie. E mentre gli umani parlavano, mi accucciai con il muso voltato dall'altra parte. Non volevo proprio che mi considerassero uno schiavo in vendita. Tantomeno uno schiavo che scodinzolasse per farsi bello e implorasse la pietà di quei due giovanotti. Una volta soltanto, dopo che la padrona aveva finito la sua tiritera, mi sono preso la soddisfazione di guardare in faccia i due visitatori. Mi sono alzato, ho puntato le zampe anteriori contro la rete della gabbia, ho guardato ben dritto negli occhi prima la ragazza e poi il ragazzo. Quindi mi sono nuovamente voltato e riaccucciato. Bene, mi avete visto come sono e ora andate pure a cercare un cane che vi aggradi. Dopodiché i due giovani e la padrona proseguirono. Ma passato un po' di tempo, eccoli di ritorno. La ragazza disse che mi voleva com'ero, e anche il ragazzo. Così diventai il loro cane. Agganciarono un guinzaglio al mio collare e mi portarono via. Addio canile! Ormai non ero più un cane orfano, avevo due genitori umani. Mi chiamarono Bernie. Ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.